Allora Oloferne le disse: «Sta di buon animo, o donna, non temere in cuor tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno che abbia accettato di servire Nabucodonosor, re di tutta la terra. Ora, se il tuo popolo che abita sulla montagna non mi avesse disprezzato, non avrei levato la mia lancia contro di loro. Ma sono essi che si sono procurati questo trattamento. Ma ora dimmi, per qual motivo sei fuggita da loro e sei venuta da noi? Certamente sei venuta per essere salvata. Fatti animo, rimarrai in vita questa notte e in avvenire. Nessuno infatti ti farà torto, anzi, ti tratteranno bene, come si usa con i servi del mio signore, il re Nabucodonosor». Giuditta gli rispose: «Degnati accogliere le parole della tua serva e la tua ancella possa parlare in tua presenza. Non pronuncerò menzogna in questa notte al mio signore. Se vorrai seguire le parole della tua serva, Dio porterà felicemente a termine la tua impresa e il mio signore non rimarrà deluso nei suoi progetti. Viva, sì, Nabucodonosor, re di tutta la terra, e viva la potenza di colui che inviò te a riportare sul giusto cammino ogni essere vivente. Giacché per tuo mezzo non soltanto gli uomini servono a lui, ma per mezzo della tua potenza anche gli animali selvatici, gli armenti e gli uccelli del cielo vivranno per l'onore di Nabucodonosor e di tutta la sua casa. Abbiamo infatti udito parlare della tua sapienza e delle astute risorse del tuo genio, ed è risaputo in tutta la terra che tu solo sei valente in tutto il regno, potente nel sapere e meraviglioso nelle imprese guerresche. Pertanto, circa il discorso tenuto da Achior nel tuo consiglio, ne abbiamo appreso i termini, giacché gli uomini di Betulia l'hanno risparmiato, ed egli comunicò loro quanto aveva detto in tua presenza. Perciò, o signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma ponile nel tuo cuore, giacché sono vere. Il nostro popolo, infatti, non sarà punito, né la spada prevarrà sopra di esso, se non avrà peccato contro il suo Dio. Orbene, perché il mio signore non venga ricacciato senza poter far nulla, la morte piomberà certamente su di loro. Li ha stretti infatti il peccato, col quale provocano all'ira il loro Dio ogni volta che commettono uno sproposito. Siccome i cibi erano venuti loro a mancare e tutta l'acqua si era fatta rara, decisero di mettere le mani sul loro bestiame e risolvettero di consumare tutto quanto Dio con le sue leggi aveva vietato loro di mangiare. Deliberarono di consumare perfino le primizie del frumento e le decime del vino e dell'olio che conservavano come cose sante per i sacerdoti che a Gerusalemme servono al cospetto del nostro Dio. Queste cose a nessuno del popolo era permesso di toccare, nemmeno con le mani. E hanno inviato dei messi a Gerusalemme, giacché anche quegli abitanti hanno fatto lo stesso, perché portino loro il permesso da parte del consiglio degli anziani. Ma avverrà che quando sarà stata portata loro la risposta e avranno agito in tal modo, in quello stesso giorno verranno consegnati a te per loro rovina. Per questo io, tua serva, avendo appreso tutto questo, sono fuggita dal loro cospetto. Dio mi ha inviato a operare con te delle imprese che faranno stupire tutta la terra, quanti ne avranno sentore. La tua serva è pia, e notte e giorno servi il Dio del cielo. Orbene, io mi propongo di rimanere presso di te, o mio Signore, ma la tua serva uscirà di notte nella valle. Io pregherò Dio, ed egli mi annuncerà quando abbiano commesso i loro peccati. Allora ritornerò per riferirti. Tu uscirai con tutto il tuo esercito, e nessuno di essi potrà opporti resistenza. Poi ti guiderò attraverso la Giudea fino a giungere davanti a Gerusalemme. Porrò il tuo trono in mezzo ad essa. Tu li condurrai come pecore che non hanno pastore, e non ci sarà nemmeno un cane ad abbaiare contro di te. Queste cose mi furono dette secondo la mia preveggenza, mi furono rivelate e fui incaricata di annunciartele. Le parole di lei piacquero ad Oloferne e a tutti i suoi ufficiali, che rimasero stupiti della sua sapienza, e dissero: «Da un capo all'altro della terra non c'è una donna simile per bellezza di aspetto e senno del parlare». Oloferne poi le disse: «Ha fatto bene Dio a inviarti avanti al tuo popolo, affinché ci sia la forza nelle nostre mani e la rovina per quelli che hanno disprezzato il mio Signore. Ebbene, tu sei graziosa d'aspetto e saggia nelle tue parole. Se farai come hai detto, il tuo Dio sarà il mio Dio, e tu potrai sedere nel palazzo del re Nabucodonosor e sarai famosa in tutta la terra».